dato al vento il tuo profumo e alle stelle hai dato gli occhi tuoi. Sei nell'aria fresca del mattino e senza te mi perderei. Vedo la tua isola da qui e potrei venire a cercarti, ma c'è troppo mare tra di noi, anche se per te lo affronterei. Sei inevitabile per me, l'unica alba possibile. Sei sale, amore e vento su di me. Sei sale, amore e vento su di me. Una musica lontana ti accarezzerà con le sue note. La tua pelle è una potente droga che può portare un uomo ad impazzire. Vedo la tua isola da qui e potrei venire a cercarti, ma c'è troppo mare tra di noi, anche se per te lo affronterei. Sei inevitabile per me, l'unica alba possibile. Sei sale, amore e vento su di me.